O misantropia che ti siedi accaldata dopo il tuo pasto di me, con te ballerei stanca, con te ringhierei molto lontano dalle pinete, dai laghi, al colpo, al sole dei dardi soppesati.